Dottor Cassini, per Mastelisa cosa presenta al Mad Expo di quest'anno? Beh, per Mastelisa intanto presenta se stessa, perché è la prima volta che partecipiamo ad un evento così importante come il Made. Riteniamo di essere comunque una presenza efficace non solo per noi ma anche per tutto il contesto operativo del settore. In Made esponiamo sulle quattro vie principali silenzio, vertigo, sicurezza ed energia, con prodotti tecnologicamente innovativi di alto livello architettonico, e pensiamo, in considerazione delle visite che abbiamo ricevuto, di avere comunque centrato qualsiasi tipo di obiettivo e raggiunto qualsiasi tipo di soddisfazione per le persone che hanno partecipato ai nostri incontri. Non più tardi di ieri pomeriggio abbiamo presentato, grazie al coordinamento di UNXAR, anche il progetto Torre Garibaldi, qui di Milano, dove ha partecipato l'architetto Massimo Roy e l'ingegner Alessandro Arvalli per quanto riguarda Beni Stabili, evento che ha avuto un grosso successo, quanto si tratta di un progetto innovativo come costruzione e una ristrutturazione, quindi deve dare l'esempio a tutto il territorio nazionale che anche i vecchi edifici possono avere un ritorno, un ringiovanimento e una durata nel tempo adeguata a quello che sono le esigenze attuali. Per dire tutto questo, crediamo che veramente il Made è una grossa opportunità anche per Mastelisa. Abbiamo visto capannelli di curiosi intorno alle immagini dei test che avete effettuato in Messico su un vostro prodotto, e sono immagini, le abbiamo viste anche noi, davvero impressionanti, danno la dimostrazione di quanto questo tipo di prodotto possa resistere. Ma ci spieghi meglio lei. Si tratta, è un prodotto che purtroppo in Italia non è molto recepito, ad esclusione di un progetto che è stato concepito da un notissimo architetto italiano e speriamo abbia un immediato sviluppo in Italia, anche perché è un progetto a cui noi teniamo molto. Si tratta di una costruzione che noi chiamiamo bomb blast, quindi una costruzione anti-esplosione, viene utilizzata per contrastare determinate azioni di carattere terroristico in giro per il mondo. È stata progettata, pensata e costruita per fare in modo che gli utenti all'interno degli edifici ricevano una maggior protezione grazie a questo sistema applicato all'involucro architettonico. Questo test dimostra che funziona, che è un test che abbiamo sviluppato per un nostro committente molto importante, del quale però non posso fare neanche le iniziali. È un test che ha dimostrato che anche con grossissimi quantitativi di esplosivo, parliamo di quasi 5.000 kg, ad una distanza di circa 100 metri dal mock-up, e facendo esplodere questo esplosivo, abbiamo comunque raggiunto il risultato, in quanto il mock-up ha resistito positivamente all'impatto, all'onda d'urto, e le persone eventualmente all'interno dell'edificio avrebbero comunque beneficiato di non essere stati travolti da questa esplosione gigantesca. Quindi anche questo dimostra che per Mastelisa va in una direzione che non è solo quella energetica, non è solo quella prestazionale che garantisce il benessere climatico all'interno degli edifici, ma va anche incontro alla sicurezza. Abbiamo grossi progetti che pensiamo possano avere un grossissimo impatto a livello mondiale nel nostro settore. Crediamo serva ancora un po' di tempo, ma a breve credo che per Mastelisa sicuramente riuscirà a far parlare ancora di sé, ancora una volta come leader al mondo di queste costruzioni. Ultima domanda, il 2010 come inizia per il vostro settore? Il 2010 per il nostro settore, per il settore in generale non lo so come inizia, perché non siamo abbastanza attenti al nostro di inizio. Il nostro non è un inizio da fuochi d'artificio, però qualche scoppietto qua e là si sente, quindi siamo contenti, l'azienda va bene, l'azienda è unita, vogliamo continuare in questa direzione, quindi rimanendo uniti, facendo gruppo in tutto il mondo, perché siamo in tutto il mondo e vogliamo rimanere leader in tutto il mondo, senza nessun tipo di perdita, di pezzi di qua e là. No, vogliamo rimanere come siamo, delle due crescere ed andare sempre più verso la ricerca, l'innovazione e la presenza più costante anche nei paesi dove oggi non siamo presenti. A proposito di presenza, qui mi collego con, parlando con Massimiliano Fanzaga, a proposito di presenza, ci sarà la presenza di Permastelisa all'Expo 2010 che inizia, ormai è prossimo. Qual è, che tipo di presenza sarà, come sarete lì a Shanghai? Allora, la partecipazione all'Expo 2010 di Shanghai, che si annuncia come l'Expo più grande della storia, questo almeno sostengono gli organizzatori e c'è da crederci visto quello che sta succedendo a Shanghai, è stata recepita da Permastelisa come un'ottima opportunità. Per noi il mercato cinese è molto importante, perché l'Asia in generale, ma il mercato cinese in particolare e i tassi di crescita che sta sviluppando sono assolutamente interessanti. E in più l'idea di portare l'eccellenza italiana in Cina per noi è motivo di grande orgoglio. Il commissariato per l'Expo, la persona del professor Quintieri, ha chiesto a Permastelisa la partecipazione e Permastelisa ha aderito con grande entusiasmo, proprio perché crediamo che sia un motivo di vanto per noi portare la nostra italianità di un gruppo che, pur essendo distribuito su tutto il mondo con circa 50 aziende in 27 paesi del mondo, mantiene un'anima che è italiana ed è del Veneto, e quindi ci teniamo molto. E poi concludiamo, non possiamo non parlare, vista la sede in cui ci troviamo a Milano, a 5 anni dal prossimo Expo, che immaginiamo possa essere un vostro obiettivo importante, un po' più a lunga scadenza magari, però ce l'avete nel mirino. L'Expo 2015 è molto più vicino di quello che sembra e quello che ci sarà fra 5 anni sta per essere o è già stato seminato oggi, quindi per noi è un'ottima opportunità. Milano sta già cambiando, Milano è una città molto più bella di quello che molti pensano, questa almeno è la mia opinione, e diventerà ancora più bella con tutti i progetti che saranno realizzati e speriamo di aver modo di realizzare.